Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Sono Simone, Carlo, facciamo veloce che è in interurbana. Simone, ciao. Sì, è veloce, ma sei tu che hai chiamato, che c'è? E allora fammi parlare. Senti, Carlo, qualcosa non va. Come non va? Che intendi? Non lo so, forse ho fatto un brutto sogno, ma prima ero davanti a una specie di regia radiofonica, una roba tutta fantascientifica. Uno schermo gigante pieno di pannelli, tutto pieno di luci, colori, io non capisco. Simone, la carbonara te la devi magnà, non fumarla. È per il progetto che ti avevo detto che sto facendo con Davide, la Radio FM. Davide ha appena finito di costruire la centrale di trasmissione, un progetto fighissimo. Abbiamo messo un antennone sul tetto, abbiamo fatto un test, ho ricevuto il segnale a 3 km di distanza. Siamo arrivati fino in Viale Monza. Copriamo tutto il quartiere sicuro. Sarà la miglior radio pirata di Milano. Ma che 3 km è carbonara, Carlo? Ma quale quartiere? Io parlavo con tutto il mondo. Era roba dei millisecondi, boh. Era il futuro, tipo. Un altro fissato col futuro. Mi ricordi Roberto? Chiamalo, va, che forse ti capite meglio. Chiamarlo? Ma è all'estero. Mica posso fare una chiamata internazionale. Mi costa un sacco di soldi. Gli scrivo, va. Che così in 2-3 settimane magari mi risponde. Ciao Carlè. Ciao. Caro Roberto, ho fatto uno strano sogno. Eravamo nel futuro. Parlavamo con migliaia di persone in un secondo, con una radio potentissima che non aveva confini. Sembrava il futuro. Eravamo nel futuro. Eravamo futuro. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Quando eravamo futuro è il nuovo programma di Runtime Radio. Disponibile su podcast e in diretta. Dall'11 marzo, ogni giovedì alle 21:30. Sempre e solo su Runtime Radio.